CQ10 CQ10 CQ10 Ma come si dice che è una prova? Avanti sul canale 10, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ 10, hola, c'è qualcuno qua? CQ 10, CQ canale 10, CQ canale 10. Come senti? Attenzione al canale 10, c'è qualcosa? Charlie, tu esiste? Che sei, che fai? Sto provando la radio! Ma non ho capito che sei, che fai? C'è lì, fa solo, parla a capo! È bello, funziona? Guarda, capito niente, va bene piano, è chiaro. Troppo lecco c'hai, lecco. Non ce n'è troppo, è anche giusto lecco. Cosa stavo dicendo, chi sei, non ho capito. Ora sei rimasto me, ora le falaggi giusti, c'è l'info solo, ciao. E a tu, vabbè. Sì, questa voce dicevo, cazzo, la conosco, però... non capisco chi eri. Eia, ma anche tu stai modificando qualcosa? Modificando in che senso? Il lecco. Ah, no, lecco ce l'ho nel microfono io, capito? Anche nell'apparato c'è, ma non l'ho messo quello l'apparato. Uso quello... c'è solo il fermo... Ma chi è lo sceriffo? Lato, ragazzi! Eia. Ma chi è lo sceriffo? Vabbè, a tu! Ciao! Ormai com'è? Ma lo c'è in campagna? Oh, osservi! Non ti chiedo un controllo che siamo tutta la sera a provetti! Dimmi! Poi, benissimo, tu, quasi Santiago 9, sì, tu hai detto c'è in campagna! Eh? manda me allora, dai. No, no, la grande stiamo andando, quasi Santiago non c'è qua. Ehi, salutami l'altro amico nostro, che sto chiudendo che devo fare cosa. Ciao, ciao, ciao, ciao Gianni, riprendete. Ciao, ciao. Allora, quanti anni eri che non entravo? Ero da parecchio tempo, ero travaglini e non c'avevo tempo. Ma ce l'avevi pure in macchina prima, già te lo ricordi, sì. Caragara. Ehi, a travagliare, a travagliare, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, ci sentiamo. Ciao Claudio, non lo so se ci sia qualcuno, se lo spengo tutto, buono. Non so, no, io c'avevo la via accesa e sto parlando anche dall'altra parte, sono entrato a salutare a te Antonio Ragazzo. Continuate, ci ascoltiamo, rimango in quei rinchisi. Antonio ha chiuso, Antonio ha chiuso, c'è qualcuno su 10? Ci sono io. Claudio. Oggi sono stato a comprare l'otto alla mia compagna, ma bello è questo che ha comprato lì, molto bello. Costa un poco di là, ma sulle 200 euro viene, 198 qualche cosa, ma è bello veramente. Cosa hai fatto comprare? L'otto. Ho capito. L'otto. È un telefono nuovo. Ah, ui, non ho detto, manco una lira del telefono, io me la fate cedere. Mi è arrivata la radio nuova, in due numeri della telefonata. Ui, aia, vabbè dai, rimane con Corix. Claudio, la portante usciva però, radio no, però la portante usciva. E adesso domani mattina chiama Marco per vedere che cos'è, se un paese ti va a fare, non lo so. No, la ricezione c'è, la ricezione c'è tutto, no? Non ci sono problemi, bellissimo. Però non esce di radio in UHF. Stavo leggendo il manuale, non lo so. Adesso vediamo, domani mattina chiamerà lei. La portante la vedevo io. La radio non usciva in UHF, capito? Bisogna vedere, stavo leggendo il manuale. Adesso vediamo, non mi preoccupo già. Caterazzi. Domani mattina sentiamo un po' il centro assistenza, vediamo cosa mi dice. Va bene ragazzi, sono un buio, non è Giuliana, mi sento ancora male, cazzo, non mi bacia più questa goccia. Natalino, ma poi aspetta, l'avevano risolto il problema di quel telefono Renzi? Ehi, me l'ho venduto, perché io c'ho l'Oppo, c'ho la 53, c'ha 128 giga di memoria, cazzo, un bellissimo telefono quello che ho io, come quello di mia moglie c'ha anche c'ha l'Oppo anche lì, capito? E la 53 sì, anche quello di Elena è così, è un bel colore, anche l'ha preso blu, è un bel colore, 64 giga di marcia. No, il mio ne ha allora. Adesso te lo dico subito cosa va. C'ha 4 giga di RAM e 128 giga di memoria c'ha. La RAM è 4 giga. Capito? E c'ha 128 giga di memoria totale. Leggermente inferiore a quello che avevi era 6 giga di RAM invece che 4, ma bene o male così. Questo qui è bellissimo come telefono, è veloce, di lusso, capito? Quell'altro me lo son venduto, cosa me ne di nico lui? Ma il fatto che a me non me l'hanno risolto il problema, io l'ho mandato all'assistenza, ma non me l'hanno risolto, lo fa sempre, esce a tratti e a volte manca, sento la gente che parla, ma allora a me non mi sente. E così mi faceva il mio. Però il tuo l'hanno risolto, se funzionava. Sì, il mio l'hanno risolto. E poi ho trovato una persona che lo voleva e gliel'ho dato. Vabbè, l'avevi già comprato, no? Senza telefono rimanevo. Me l'hanno tenuto più di un mese. Capito? Oh, sono passato da Vodafone alla Leica Mobile e non era quello lì. Ma cosa vuoi ti dica già? Deve essere una partita difettosa, era. Perché i certi non gli hanno fatto nessun difetto mai. Sì, sicuramente l'hanno venuta a loro perché la comprano in blocco e succede per molte cose. Io avevo comprato anche un monitor lì da Media World, era bellissimo, c'aveva anche la scheda TV, eccetera, eccetera. Piatto, coso, dopo due giorni che l'avevo usato non si accendeva più, gliel'ho riportato e me l'ha cambiato, me ne ha dato un altro, senza aggiungere nulla, me ne ha dato uno superiore, più grande, più grande. Quello lì mi è durato tanto, però il primo aveva questo difetto, capito? Comprate già difetto. E anche il mio era così, cosa vuoi ti dica? Ma allora ti dico, questi Oppo sono buoni come telefono, non mi ha fatto nessun disturbo più. Chissù. Questo è buono, la 53. E io la 52 ed è ottimo, buonasera. E io mi ho la 52 e ho un telefono ottimo. E io ho la 53 ultimo lo stesso. Siccome gliel'ha fatto prendere Gianni alla sua compagna, ed è ultimo come telefono, vedrai che rimane soddisfatta. Sì, questo negozio perché siamo andati a vedere per la mia ragazza, siamo andati a vedere i telefoni, perché il suo ha fatto una cosa, una lì, ma gli hanno detto praticamente di... come si dice? Di pulire il telefono, ha schiacciato questa qua, si è spento lo schermo e non accendeva più il telefono, si diceva solo schermo spento, parlava, capito? Figurati. Abbiamo dovuto portare la centrale assistenza, nel primo via Pulizetta non ce l'hanno fatta quest'anno, abbiamo portato in via l'Italia e invece me l'ha messa a posto, è riuscita a sbloccarlo, dopo tanto, e funziona, però l'ha voluto comprare nuovo lo stesso perché dice che non si fida più col telefono, l'ha voluto nuovo, anche perché la batteria stava partendo, ce l'aveva già 5 anni col telefono, era il P20 della Huawei. Ma questo già è buono, si è preso la 53 ultimo come telefono, è come quello mio, e poi mi c'ha la 52, Cristian sta dicendo che è ultimo anche quello, sono buoni come telefoni, mia moglie ce l'ha uguale, e non gli ha fatto mai niente, è ultimo come telefono. Invece questo qua ogni tanto mi telefonano anche gente importante per fare, dirmi cose importanti, cazzo, si interrompe la linea, a un certo punto mi hanno chiamato dalla ditta l'altro giorno, si è interrotta la linea, poi non comprendevo più nulla, allora li sentivo e loro a me non mi sentivano, mi chiamavano Gianni, boh, niente. E così faceva a me quello lì. Ma qua me l'hanno messo a posto e me l'ho venduto, meglio così. Almeno ho questo qui e va bene. Secondo me ti conviene a farlo buoni a voi se venditire, comprate uno di essi. A me addirittura il Samsung mi si è bruciata la scheda madre. C'era Luca, il Samsung nuovo. No, Samsung dice che si surriscaldano le batterie. Ci hanno un po' di difetti il Samsung, a me mi si è spento di colpo, il Samsung non ha più funzionato, così di colpo, si è spento, non ha né acceso, non accendeva più le mie. E come ha fatto il mio? Mi si è bruciata la scheda madre, c'era Luca infatti, ha giunto tratta di rapezzi, ha giudito Luca, ha futtisini, non me ne ha futti nulla, se non si può acconciare, se lo usa a pezzi, qualche pezzo che gli serve, lo toglie da lì e se lo usa, molto ci vuole. Ciao Gianni. Cosa? Ne mi senti? Ehi, va. Capo, mezz'ora su. Ascolta, com'è la radio? Che buona. Ma Fischi non ne ha niente? No, non ne ha. Perché Fischi vuoi? No, sto provando, aspetta, che te l'aumento un po'. Ok, adesso com'è? Vieni a vedere. Allora va bene lo stesso. Va bene, ma era meglio prima, era più chiaro. C'hai picchi positivi, fra. Oh già, così più chiara è. Meglio. Che appare che stai usando? Linko. Esa Delta. L'Ecomaster. Va benissimo. Apparecchio, te lo chiudo. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao Natali. Ci rimetti appena appena di ecco, va ancora meglio. Come così, aspetta. Ok, così va bene, guarda a vedere. Così c'è appena appena, ma un buccio, ancora un pochettino. Ok, vedi a vedere se va bene ancora così, se è migliorata. Oh, ecco, non è sempre. Senti, ecco, come mai? Eppure, allora, riesci a vedere? Adesso l'ho messo a 5, l'ho messo, vedi a vedere? Ma senti che vuole? Sempre il mio eco, Gianni. Io non ne sento di eco. Vabbè, ce l'ho. No. Andiamo un po' così a vedere. Adesso c'è? Adesso sì, un pochino, sì, adesso va bene. Scappa, dai. Va bene che lo chiudo. A dopo. E io, ciao, ciao, ci sentiamo. Natali, ma tu l'hai pagato per poco quel telefono? Io quello che ho preso è costava quasi 200 euro, 189 qualche cosa, è 90, 189 90. Se poi facevi il contratto con la Wind, lo pagavi meno. E così ho fatto io. Ah, mi sei messo Wind? No, ce l'ho la scheda Wind, quando la voglio usare la uso. Però non la sto usando, c'ho sempre Vodafone qua, nel mio telefono. Capito, il numero me lo sono tenuto. Gli ho dato un'altra scheda che avevo, mi pare chissà di bruci, e mi sono fatto dare la scheda Wind per pagarlo di meno. Anche il mio costava 189. Sì, allora così da. Cosa stavo dicendo, Natali? Nulla. Io ho fatto l'Eca mobile e mi trovo bene. Per quanto riguarda il telefono, poi è diverso, però come gestore va molto bene l'Eca mobile. Paghi 5,90 euro, un mese scarichi 5 euro, un mese altro mese scarichi 10 e si è a posto. Quanti giga hai? Guarda, io non rinnovo mai niente perché lo uso un bel telefono, non mi hanno mai detto come facevamo da poter caricare perché è terminato in giga. No, sono illimitato. No, perché io sia Wind, Vodafone e Mobile. Guarda, 5,90 ce l'è per i pugni, con il Vodafone pagato 15 euro, ogni tanto mi chiedevano 5 euro perché ho 20 giga, poi ti rubavano soldi a tutta andare perché io mettevo per dire 15 euro, andavo a vedere non veniva, e veniva lì 8 euro, come mai? Ci prendevano i soldi subito, senza che io andassi fuori. Guarda, io sono un mobile, pago, mi sembra, sì, un mese, sono tranquillissimo, e ricevo dappertutto. Neanche io ricevo dappertutto, non ho problemi per ricevere. Il problema è solo che si attratti, a volte, ma è il telefono che ha questo difetto, perché ho cambiato diversi operatori e se fa sempre la stessa cosa, pensando che fosse l'operatore che non serviva. Vodafone mi ha fatto fare mille prove, mi ha fatto spegnere il telefono, riaccenderlo, farlo, ne ho fatto poche di prove. E poi il telefono è risaputo, anche a Natale lo fa lo stesso dire, ha fatto lo stesso difetto, quindi è lì, l'abbiamo comprato tutti e due da Media World, quindi immagina. Ma guarda, io ho un Moto A52 e mi trovo benissimo. L'ho preso forse un anno e mezzo, un anno fa forse. E le do un euro e mi trovo veramente, veramente bene, guarda. Non è stupendo il mio telefono. Sì, sono distanziato per a meno prezzo, cioè diciamo che ci sono anche quelli che costano 300 e passa, di quelli lì. Però fanno cose mega galattiche. Però li stanno dando a meno prezzo perché per lanciare un po' il marchio, capito? Perché non lo conosco molto. E quello già vero. È quello. Se no, oh yeah. Praticamente facendo conoscere il marchio poi ci riescono a vendere di più. Cavagara. Il mio è ultimo, lo stesso, sono contento, da canduraggio non mi ha dato problemi. Ma deve essere così il telefono, perché se tu fai la telefonata, ma questo telefono è come tirato a capo una casa, perché ci sono volte che ci sta anche una, due ore e non si non perde la telefonata, ci sono volte che mi chiamano pure la vedi subito, eh? Il tecnico mi ha detto che potrebbe essere una cosa... qualche difetto al telefono tutto all'interno che è da vedere, qualche cosa tecnica. Infatti ci sono quei senti, addirittura l'usasso mi si è bruciata la scheda madre, dimmi tu, l'avevo pagato un casotto di soldi e poi è per nulla, si è spento e non ha più acceso. Cioè, vado a accenderlo la mattina dopo averlo spento io e non ha più acceso il telefono. Allora io lo spengo la notte, cosa me ne affutti. Poi dura anche un bella batteria già di questo A53, è di lusso veramente. Io questo peggio non mi posso lamentare perché dura due giorni, lo tratto il telefono perché carte non ha, eccetera, quindi lo uso un bel. La batteria dura, ma non è quello il problema è la telefonata, tutto il resto lo fa bene, veloce, cosa ti posso dire, se vado su Facebook, su WhatsApp, cose veloci, scrivete, tutto qua. Il problema della telefonata è solo quello che c'è, la telefonata che non va bene. E tu falli un reset, come hanno fatto loro, me l'hanno resettato il telefono e ha funzionato bene pure. Capito? Io me l'ho venduto per non averne due, cosa me ne posso di due telefoni? Uno devo dare asciugato e senza scheda. Vabbè, perché tu l'hai preso prima, se magari te l'avessero dato subito, ma avevi un altro telefono per sostituire quello, non te l'avresti comprato, te l'avresti tenuto, se andava bene. Infatti, siccome era appiedato, allora ho dovuto comprarmi un altro e ho scelto quello della marca di quello di mia moglie. E so che andato due. Dove l'ha preso? Da Media World? Ma da un euro mi sembra che l'avevo preso questo. Da un euro, ho capito. Bisogna che vada a vedere, perché mi sto stufando. Tutti quanti mi dicono, cazzo, non ci si può telefonare, cacci sempre la linea, oppure ci sente a tratta. Lo so. L'unica cosa è ti pigli chi il tuo guido di Rovelli, gli fai un reset, gli fai. Prova a fargli il reset tu. Se vedi che funziona bene te lo tieni, altrimenti ti compri uno di questi, di questa marca qui, e sono buoni, e chi sono di Rovelli. Tocca di nuovo a fare tutto, ripristinare tutto, mamma mia. Gli fa il reset alle impostazioni di fabbrica e poi vedi se funziona. Se funziona te lo tieni e se no ti pigli uno di chi. Avevi un telefono che non funziona, perché mica è fastidioso quando a te ti sentono e tu non senti a loro, o viceversa. No, io loro già li sento, loro che lo sentono a me, capito? Mi sentono a tratti, ce la sento a tratti, la sento a tratti, ogni volta che il telefono per pigliare appuntamenti, mi scusa, sto sentendo a tratti. Non si può abitare. L'unica cosa è cambiartelo il telefono, perché quelli sono difettosi. Deve essere una partita di telefoni difettosi. Farò così. Mi sa che mi piglio come quello di Elena, ma lo prendo uguale identico. Così almeno non ci ho da sbagliare. Infatti, come era pigliati come te chiesi? La 53 e non sbagli. Aia. Ma non volevo spendere, ce l'avevo un nuovo, c'era un nuovo, gatto, mi dà fastidio, cambiano obsoleto, non faceva più gli aggiornamenti. Si viene a subito la memoria, chi tu se la viene un altro che mi ha già venduto, chi tu Samsung, me l'ho venduto quello, perché si era quasi a bloccarsi, e allora ho preso e me lo sono venduto. Adesso guardo su internet quanto costa. Guarda su internet, guarda. Natale, e quelli vivo, li hai visti, quelli, quei telefoni vivo che hanno le lenti ZIS per scattare le foto? Quei telefoni si chiamano Vivo, V-I-V-O, hanno le lenti ZIS per scattare le foto. Ah boh, non lo so, non li ho visti, no. E allora non so che andando in Bianici Lugo. Vabbè dai, io me ne passo in quel rettino che devo cenare. Ci sentiamo alle prossime, dai. Salutoni a tutti, quel rettino per me. Ehi, a Natali, qua costa 179,33 quello che dici. L'Oppo A53. Bellissimo. Infatti, di come era pigliati lì su, scatta delle foto bellissime. Ragazzi, gioco per me che sono sul mercato, dai. E la, c'è anche la 54, costa 178 e qualcosa. Sono belli tutti quanti questi Oppo. Attenzione, Nietzsche. Ora. Che è questo qua tutto sano? Zattolo. Ciao a tutti, eh beh. Non vedo che sia zattolo, no? Io lo sento un po' zattolo, ma non so pure. Sarai attaccato sicuramente. Cappa. Vai zitto, meglio va così. Oh, ora, ora. Ma passa giù. 1, 2, 3, prova radio. Sì, adesso no. Cappa, Radio Ducato, mi sa fare Radio Ducato. Però deve andare a Gucci, deve andare a me. Ora! Ma io sempre maneggiando, sai. Buonasera. Cappa, buonasera a te. Mamma, che ore sono? Che ore sono? Sono subito l'8. L'8 meno 10 passate, dai. Andate, 10 minuti, il resto poi c'è da portare il cane, dai. Ducato non ce la mettete, di solito alle 8 in punto mi sveglia. E lui invece mi sta rompendo tutta la porta, porca miseria. Vuole entrare, quindi si mette a raschiare, me ha buttato mezzo intonaco. C'è più parte della cornice dei coprifili della porta. Ma quelli si possono cambiare. Speriamo non mi graffi la porta. Ma non ti fa. E allora? Buonasera. No, è viziato. Cosa freddo? È viziato. Avanti, Pietro, buonasera. Ciao Gianni, la scimmia. Ciao Luca. Ciao Luca. Luca, come sta andando? Ciao Tino, ciao Antonio, ciao Gianni, come sta andando? Bene? Ciao Gaia. Sì, e non è la tua assoluta modulazione. Vabbè, no, qua dalla 25 mi si è capotata l'antenna. L'ho buttata giù, l'ho ripiazzata, giusto per sapere se stava andando bene. Va benissimo, siamo 9:30 qua. Andava, io vado a cenare, se ci siete dopo ci facciamo una cecciorata. Gappa, già va bene Luca, va sempre bene. Luca, ascolta, dimmi una cosa, la Huawei P20 come telefono, così, obsoleto. È buono, ottimo telefono. Perché adesso la mia compagna se l'ha cambiato, si è comprato quello Oppo, ma bello veramente, molto bello. E non ha pagato manco molto, così 200 euro. L'altro deve cambiare la batteria e funziona, capito? Però se è obsoleto, che non fa più gli aggiornamenti e cose del genere, non gliene chiamo di mano. Vabbè, già li fa gli aggiornamenti, tutti i telefoni fanno gli aggiornamenti già. Ascolta, Xiaomi, come va? L'11. I colori sono buoni, ma io punto sempre su Samsung, ormai, pure magari domani cambierò. Per il momento sempre Samsung. Sono tutti a pagare una bomba. Non mi ha mai fatto problemi. Gli Oppo li stanno prendendo molto, perché quasi qualità prezzo, con le quali ce ne costano 298. È buono, dai, va bene, dai, io scopo a mangiare, già c'ho fame. Se ti siete troppo, ok, ciao, buona cena anche a voi. Ciao, ciao. Ciao, mi ricarica Luca. Pronto? Dica. Ascolta, ho finito le buste per sottovuoto. Vedo che domani le compro. Quando vuoi, mi rimetto solo il tuo chiletto. Vabbè, no, non c'è problema. Non è che... No, tanto fino a sabato, capito? E vabbè. Perché le devo rifare sabato, però adesso avete fatto, le stavo già mettendo sotto vuoto, perché sennò diventerò troppo stagionato. Vabbè, non c'è problema, non ti preoccupare. Andà Bex. Da voi sabato dovremmo abbattere il vostro rigigione, il vostro. Ma io non lo so, io sinceramente, vabbè, i gusti non lo so, io per dire quando la faccio fresca molta gente la vuole dopo una settimana per farsela rosso o per metterla nel sugo. Questa qua secondo me, io parlo per i miei gusti, e questa qua l'abbiamo fatta il 30, ma oggi quanto ne abbiamo? Ho capito. Ma fidati che è buona, ti dà un bel sapore, ti dà. Oggi è 19. È vero, ma 19 giorni ha, capito, io è pronta a affettare. Vabbè, ma io un mezzo zucchetto me lo voglio fare. Vabbè, gusti e colori non si discutono. Allora, le gnocchette alla capitanese si fanno così, si fanno con la salsiccia, con il sugo, con la salsiccia fumicata e formaggio di colossato, che è una sciccheria. Sì, sì Gianni, ma la mia domanda è questa, con quella stagionata o con quella semifresca? Uguale. Non dura dura, però un po' morbida, ma non fresca fresca. E la faccio a pezzettini piccoli piccoli, capito? Poi il sugo lo passo con l'uovo, quando sta cucinando lo passo e la salsiccia si amalgama nel sugo, lo sai che è buono. Non era giusto, perché io sinceramente non la metto fresca, capito? Magari io uso molto la salsiccia fumicata perché dà un po' sapore. Certo, io lo stesso, io la fumico, questa volta l'ho fumicata una volta in più, perché la volta scorsa non si prendeva la... ma anche questa volta non c'è tantissimo, non si deve incarnare nella carne, capito? Sennò poi la fastidio è molto cattivo. La pasta ci sta molto buona. Io la prendevo di solito a centro carni, e lì la fanno molto buona, la fanno loro, la fumicata ed è buonissima. Stagionatura media non è né molle né dura, se è dura non è dura, lo sa già, ma ce l'hai non male. E vabbè, adesso sono un po' perché sono a dieta. Ma io sapevo che i rivenditori non la possono vendere come carta, voi non lo so, perché l'avevo già proposta, ma però non la possono vendere, non si può fare come carta. Io la compro come carta, vai al centro carni, tu gli dà soddisfazione, la prendi la come carta. Ma metto la soddisfazione, me la faccio io, che differenza. Va bene. Non me niente, non fiammi il muro. Usa la fumicatore, che secondo me la rovina la carne. Quello sì. Vabbè, deve essere affumicata con la braca naturale. Vabbè, comunque. A me piace molto la roba affumicata, il salmone, la salsiccia affumicata, lo speck. Tutta questa roba qua affumicata, tutto il sapore della affumicata. Cosa hanno fatto? La pancetta, il guanciale, lo speck, lo stesso. Un cazzo. Non mi hanno fatto niente. Oggi salsiccia è basta per me. Infatti ho deciso di rifarmela perché l'hanno sabotata anche. Vabbè, è una soddisfazione anche quella. Non siamo attentati a tirarlo a te. No, vabbè, ma noi l'abbiamo sempre fatta, non è questione di se la concetta di cominciare lo facevo sempre. Quest'anno ho voluto fare anche la coppa, che poi capo coro praticamente. Cappa, dai, io vado a mangiare. Ci sentiamo dopo che è pronto, ok? Ehi, Arto, dai, ci sentiamo. Adesso vado a dormire anch'io, Dino, dai, ti saluto. Ti rilascio a te, ti saluti anche a tu. Che vado a portare giù a taglio, dai. Via, non c'è problema, dai. Tiriamo 5 minuti qua al computer, vedo due cose e poi anch'io mi diretto per mangiare. Ciao, buona carica, tu dai, ci sentiamo. Ciao Gianni. Ciao, ciao, ciao. Tutti quanti, non c'è nulla che non sia positivo. tutti quanti. Esci fuori, anche, c'è anche dello sfin per dire, e ti fai la spesa, cosa del genere, vieni da casa e sei fottuto. Questa Omicron è un come l'influenza, tale uguale. Così è. Gappa. Non tanto nella spagna la caldaia, cazzo, dice 26 gradi, non che mi prende una 5, ci sentiamo dopo. D'accordo, ok. Buonasera. Ma sei già da fuori, allo freddo. Comunque c'è proprio un telecomando da dentro, io schiaccio, vedo che trovo fuori, schiaccio, già gioco l'ingaro, c'è una centralina lenta, io vado a spegnerla e c'è troppo caldo. Ah, pensavo che avevi fuori, cazzo. Giovanni c'è la generazione, mica c'è il telecomando, è di quelle nuove, è di ultima generazione, ma il telecomando non è per niente, quindi deve uscire fuori e spegnere fuori, cioè si spegne in automatico, vabbè, comunque sia.